chiudere o aprire, ma se guardo le chiavi, serrature e paletti, questa porta del mondo ha troppi lucchetti. Chiudi sempre la porta, non aprire a nessuno, mi dicevano i grandi, mi chiedevo insicuro. Se mi bussa un amico io non lo riconosco, ma che razza di mondo, solo lupi nel bosco. E guardo dal balcone, vedo giù il portone dove si scappa fuori, non fosse che poi muori se volassi giù da qui. A fare rumore, fossi un poco più grande prenderei l'ascensore, ma le scale di corsa non mi fanno paura, esco solo mezz'ora ma vediamo se dura. E guardo dal portone, vedo sul balcone mamma e papà son pronti, dopo facciamo i conti, sì, ma intanto resto qui, meglio così. Più grande, chiudo sempre la porta, mi difende se posso, il resto chi se ne importa. Ci ho incontrato mio figlio, non voleva scappare, ma gli ho detto ti porto, dimmi dove vuoi andare. Lui guarda l'ascensore, cerca il suo bottone, prima che l'ora giunga. Dico una storia lunga e sì, sorrido e svelo un sì, si usa così. E guardo dal portone il campo di pallone, un bimbo corre dentro, dopo si vola in centro, sì, si gioca tutti qui, meglio così.